viaggio senza far chiasso, si è allungato il tasso. Non serve vincolare, così puoi sempre fare quel che tasso vuoi.